la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qui siamo in diretta 19.36 dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta, l'indirizzo resta sempre, lo ricordo ogni giorno all'inizio, lo signor di Oscar chioccio radio24.it. E invece il numero di telefono per darci la vostra opinione è 800 24 00 24, 349 238 6666, per gli sms. Vi dico subito il tema del giorno, che ferra in busta paga? Ci credete, ve lo aspettate? È una buona cosa, non è una buona cosa? Ecco, diteci un po' come la pensate. Per capire di che cosa si tratta, ricordo solo, anzi facciamo una cosa, sentiamo direttamente il Presidente del Consiglio Matteo Renzi che ha lanciato l'idea in vista della legge di stabilità, sentiamo come. Sul TFR ne parliamo, io so che c'è un sacco di gente che discute molto di questa cosa, anziché tenere i soldi da parte alla fine del lavoro te li do tutti i mesi. Che vuol dire per uno che guadagna 1300 euro un altro centinaio di euro al mese, che unite gli 80 euro inizia a fare una bella dose, insomma, cioè se si recuperi 180 euro nel giro di un anno vuol dire che inizia ad avere un potere d'acquisto maggiore. Il TFR così com'è c'è praticamente solo in Italia, la preoccupazione è che se diamo il TFR subito in busta paga ci sia un problema di liquidità per le piccolissime imprese, quelle grandi ce la fanno. Allora sulla base di questo stiamo ragionando del fatto che l'ABI, l'associazione delle banche, possa dare i soldi che arrivano dall'Europa, i soldi, quelli che chiamiamo i soldi di Draghi, esattamente alle piccole imprese per garantire la liquidità. Questo garantirebbe al lavoratore di avere un pochino più di soldi da spendere. Allora, queste sono le parole con le quali Matteo Renzi ha fatto capire che con la legge di stabilità lui personalmente, il governo sta studiando, è di questa idea. E di questa idea, cioè di mettere direttamente nelle tasche dei lavoratori quello che a oggi, caratteristica del sistema italiano, il trattamento di fine rapporto è un salario differito, quindi è già di pertinenza del lavoratore. Solo che alcune cifre per capire di che si tratta. Se guardiamo al TFR che in questo 2014 matura anno per anno, siamo più o meno a 26, anzi quasi 27, questi sono i conti di Stefano Patriarca, li trovate sulla voce.info, quasi 27 miliardi di euro l'anno. Però di questi 27 miliardi di euro poco meno di 10 restano alle imprese private. L'INPS, per i meccanismi di conferimento che anni fa sono stati deliberati, dai privati si tiene in pancia più o meno 6 miliardi e qualche cosa. Poi l'INPS c'ha sempre a proprio carico il TFR pubblico e sono 5 miliardi e mezzo. Questa è una stima approssimativa perché lo Stato non è che accantona mese per mese come i privati il TFR, paga il trattamento di fine rapporto quando i rapporti finiscono e appunto lo paga l'INPS. E poi ci sono altri però 5 miliardi e rotti che vanno in fondi pensione, cioè che la gente utilizza con l'aliquota agevolata fiscale, dirottando, finalizzando a questo come pensione integrativa il proprio TFR, una parte del proprio TFR. Quindi poiché è questo l'ammontare complessivo, ovviamente si tratta di capire oggi di quale parte del TFR stiamo parlando. Stiamo parlando del 100% di quello che matura, oppure del 50%, del 30%? Ovviamente le cifre vanno a scalare a quel punto di quello che può arrivare in busta paga ai lavoratori. Poi cosa succede con i dipendenti pubblici, visto che il meccanismo di accantonamento è diverso? Ancora, a quel punto bisogna aspettarsi che coi soldi che arrivano in più, se arrivassero del TFR, bisogna poi pagarci un bel po' di tasse sopra perché vanno sull'aliquota marginale del reddito, oppure no? E che cosa capita a chi invece lo utilizza per la pensione integrativa? E che cosa capita alle imprese che protestano, perché protestano, ha protestato sia Confindustria, sia gli artigiani, i commercianti, Rete Imprese Italia, ha detto non se ne parla neanche, perché se pensate di drenarci miliardi di liquidità, noi non li abbiamo. Oppure è una buona soluzione davvero ed è realistica che invece di anticiparle le imprese private ai dipendenti lo facciano le banche e a quel punto invece a rapporto finito di pagarlo al lavoratore o le imprese lo paghino alle banche con un interesse che a quel punto è più o meno uguale alla rivalutazione annuale del TFR, lo ricordo a tutti, stiamo parlando del 1,75% più un margine di commissione alle banche così ridotto da equiparare il costo annuale per le imprese. Sono tante domande, però si tratta di capire di che cosa stiamo parlando e soprattutto, questa è la mia opinione, adesso vi presento l'ospite e con lui tenteremo di spiegarvi un po' di queste cose, si tratta di evitare l'ennesimo effetto annuncio a cui poi la gente sta appesa e che poi magari non si traduce in cose concrete, perché poi la sfiducia di un paese si costruisce anche con annunci che non si traducono in realtà. Allora, l'ospite con cui parlarne oggi è Giuliano Cazzola, che ha passato una vita a occuparsi di welfare e previdenza. Buon pomeriggio e grazie a Giuliano Cazzola. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Allora, innanzitutto domanda, cosa ne pensa lei di questa proposta? Ma guardi, io ne penso malissimo, perché il TFR è una risorsa troppo importante che serve, come lei ha ricordato, alle imprese, soprattutto alle piccole imprese che sono state escluse dall'operazione fondo tesoro presso l'INPS, e dovrebbe servire ai lavoratori, alle famiglie dei lavoratori per delle esigenze che sono esigenze importanti, e non entrare secondo me nella mischia della vita quotidiana, anche perché questa idea che bisogna aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori per rimettere in moto l'economia è un'idea secondo me destituita di fondamento. Perché lo dice? Come dimostra la storia degli 80 euro? Ah, cioè lei dice alla fine andrebbero a risparmio. Alla fine andrebbero a risparmio, come dimostra il fatto, cito un'indagine del Census, che negli ultimi 7 anni le famiglie hanno a disposizione come liquidità e depositi bancari 234 miliardi di euro in più. Cioè, non mi sembra assurdo il fatto, non so, di pensare a che si possa adoperare il TFR, non so, per andare in pizzeria una volta di più o per comprare un paio di scarpe di più, no? È una risorsa che serve per se uno deve comprare casa, se uno deve pensare alla pensione, se uno deve pensare alla salute. E poi lei ha fatto una serie di domande, ma a parte il fatto che secondo me è disonesto parlare per aria, no? Che uno come fa il Presidente del Consiglio di sparare delle cose così a testare a mezz'aria, non si capisce poi come andranno a funzionare, ma è evidente dalle parole del Presidente del Consiglio che il TFR a cui pensa è quello delle aziende con meno di 50 dipendenti. E non a caso ho detto bisogna che l'ABI pensi alle banche e alle piccole e medie imprese, perché quello dei fondi pensione è impegnato nei fondi pensione, peraltro con una disciplina che può essere utilizzata, le posizioni individuali dei fondi pensione possono essere utilizzate, peraltro in questo periodo sono state largamente utilizzate, ci sono degli anticipi che sono molto, molto, molto importanti, molto larghi. Quello dei 6 miliardi del fondo tesoro presso l'INPS entra nella spesa corrente. Entra nella spesa corrente, esatto. Entra nella spesa corrente, per cui mi sembra difficile chiudere un buco per tapparne un altro, no? Io tra l'altro sarò molto critico per questa soluzione che risale alcuni anni fa. No, ma però... io farei questa proposta. Bisognerebbe invece di dire per 3 anni rimettiamo in busta paga il TFR, diciamo per 3 anni lo Stato rinuncia a quella misura, rinuncia al fondo tesoro presso INPS e a requisire il TFR dalle imprese. È evidente che Renzi guarda a quei 11-14 miliardi che oggi sono detenute dalle imprese con meno di 50 dipendenti, perché le altre risorse sono già impegnate da un'altra parte. Beh, ma non è, se fosse così come dice, adesso al netto di quello che ne può pensare il governo, non sarebbe un provvedimento che non può nascere perché è discriminante se pensasse solo a quello nella pancia delle imprese sotto i 50 dipendenti? Sì, in effetti è vero che questo sarebbe un provvedimento discriminante, però se lui pensa di togliere alla finanza pubblica i 6 miliardi che avevano nel fondo tesoro presso INPS, A me fa piacere che lei citi questa cosa, perché la cosa dei 6 miliardi in pancia all'INPS che vanno a spesa corrente, oggi praticamente non c'è su nessun giornale italiano, cioè, ma non voglio criticare i colleghi, dico però che essendo un quarto della torta complessiva, praticamente dimenticarsi che lo Stato se lo è preso, non riesco a capire. Guardi, io le posso raccontare un episodio proprio in pochi secondi. Quando ero deputato, insieme a un altro collega, facevamo un ordine del giorno, dove chiedevamo, in questo, se lei sa cosa valgo gli ordini, non valgono nulla, niente, no? Dove chiedevamo che, viste le situazioni difficili delle imprese, per 3 anni queste risorse rimanessero nel bilancio delle imprese, quello lì, no? Arrivò Tremonti, che allora era ministro dell'economia, in aula su un ordine del giorno, no? E ce lo fece ritirare a dirvi che eravate matti, perché lui 6 miliardi non ce ne annunciava minimamente. Erano solo 4 miliardi, questi sono soldi che sono già in partita corrente, no? Non sapremo come fare. Quindi veramente insomma, io credo che questa misura alla fine finiranno per farla, perché sono disperati e hanno bisogno di raschiare il fondo del barile. Però io credo che poi c'è sempre la solita storia, per cui è come gli 80 euro che vengono dati a quelli che, non dico ne hanno meno bisogno di altri, e anche il TFR ce l'ha chi oggi ha meno bisogno di altri. Certo che non è che stiamo parlando degli incapienti, di chi ha contratti senza continuità e così via, cioè stiamo parlando di effettivamente, magari a basso e bassissimo reddito pure loro, però stiamo parlando di gente che non è quella che sta proprio, non è il cuore dei 6 milioni di italiani che hanno una povertà relativa molto accentuata in questi anni di crisi. Quindi abbiamo capito che per Giuliano Cazzola le domande irrisolte sono tante. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a parlare di TFR in busta paga. Abbiamo visto l'ammontare delle 4 poste più o meno che lo comprendono, per più di 26 miliardi in maturazione annua, tra in pancia alle imprese private, dei privati, ma l'INPS che lo usa per spesa corrente, l'INPS dei lavoratori pubblici, che ha un meccanismo di accantonamento diverso dai privati, e poi quello utilizzato in fondi pensione. Vediamo rapidamente come alcuni di voi ci hanno mandato sms. Oggi sono sparsi in una forbice di opinioni diverse, quindi sono interessanti, perché c'è chi difende, Alessandro per esempio, Renzi ha fatto una proposta, non si può sempre dire fate altro. Altri invece, come Andrea, tutti a metterci le mani in tasca, ridateci tutto e subito allora al TFR, non siamo sudditi. Ecco, intorno a questa opinione di Andrea ce ne sono molte che dicono la cosa migliore sarebbe che ciascuno decidesse dei lavoratori se vuole, lo vuole in tasca, come vuole utilizzarlo e così via, quindi una opzione aperta, completamente aperta. Altri imprenditori molto critici, questo per esempio Roberto di Pordenone, imprenditore TFR, questa è un'altra promessa elettorale, ma se diventa legge soprattutto un'altra martellata alle piccole e medie imprese. Tanti altri, lo dico a Cazzola, si offendono e protestano perché appartengono naturalmente a quelli che hanno avuto gli 80 euro e dicono sì, l'abbiamo risparmiato, ma perché avevamo perso reddito e non ci trattate da pezzenti. Guardate, lo dico a Mauro, ma a tutti, lungi da noi, proprio l'ultima cosa che vogliamo fare è disprezzare o sembrare poco rispettosi degli 80 euro nelle tasche di chi li ha avuti. Stiamo parlando dell'effetto di maggior crescita attesa per crescita della domanda e dei consumi. Quando c'è una perdita del reddito pro capite del 14% in questi anni di crisi, è ovvio che va a risparmio, il che non significa dire che non vi ha fatto bene. Ah, è un altro paio di maniche. Stiamo parlando degli effetti di crescita attesi da misure di questo tipo, che poi dimenticano, perché i percipienti non sono quelli che poi sono nelle condizioni di reddito ancora più basso, tra l'altro, se vogliamo parlare di redistribuzione. Sentiamo rapidamente altri ascoltatori diretti che ci hanno chiamato. Alessio da Alessandria, prego Alessio, come la pensi? Sì, salve, buonasera. Ma io sinceramente non vedo l'utilità. Io ho un'azienda, ho 30 persone che lavorano con me. Personalmente è una scelta che già stiamo facendo da tempo, nel senso che noi ogni 4 mesi liquidiamo il TFR ai nostri lavoratori, ma non vedo nessun tipo di utilità, non riesco a inquadrarla, perché se non sbaglio, correggimi, il TFR si aggira intorno a un dodicesimo dello stipendio corrente, quindi nella vita pratica sì, per carità, qualche soldino in più a fine mese ce l'hanno, ma qualche soldino più, stiamo parlando di 70-80 euro. Quindi Alessio sei critico, non ci mandi proprio sull'efficacia di questa cosa che non credi. Antonio da Verona, prego Antonio. Sì, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ma guardi, io ho un panificio, ho tre collaboratori, perché non voglio neanche chiamarli dipendenti, sono collaboratori. Sono felice per loro se ci sarà questa opportunità, perché forse magari 100 euro in più in busta possono essere. Però mi sembra tanto così un altro bel regalo in negativo, ovviamente, che ci fa il buon Renzi. Perché poi lo fa solo per le aziende private, non pensa ecco, di farlo, anche tu pensi che sia così. Tra l'altro, se parla di 100 euro in più su 1300, significa che sta pensando anche al 100%, quindi anche Antonio, quindi non è che dica no, però è critico in quanto piccolissimo imprenditore. Raffaele da Trieste, prego Raffaele. Buonasera dottor Giannino. Oscar Giannino. Volevo dire questo, io capisco che l'obiettivo di Renzi è quello di rimettere in moto la macchina inceppata dei consumi, e quindi ora, a parte però il problema, come dire, della liquidità per le imprese, soprattutto quelle piccole, come lo stesso Renzi ha sottolineato, ma non c'è il rischio, come dire, soprattutto per i giovani lavoratori, di non tutelarsi più con il trattamento fine rapporto, che è un bene prezioso a fine carriera. E a fine carriera, quindi, lei dice, quindi dissipiamo per un salario differito ma per il futuro. Agostino da Genova, come la pensa? Io la penso così, buonasera. Secondo me Renzi vuole accaparrarsi ancora un po' di tasse, perché il TFR normalmente viene tassato intorno al 26%. Quindi secondo me la manovra vera è questa. Quindi pensano, vi prendete il vostro, ve lo diamo subito e così lo Stato incassa di più, senza rinunciare ai 6 miliardi che già si prende ogni anno e che vanno in pancia all'INPS per coprire spesa corrente. Che ne dice Giuliano Cazzola di questa raffica di opinioni? Ma guardi, io dico, d'accordo con lei che sugli 80 euro non voglio fare il discorso così aristocratico, dico semplicemente, come ha detto la Concommercio, che i consumi non ce ne sono accorti. D'altro canto lo dicono anche i dati del risparmio degli italiani, no? E poi dico semplicemente che quando si dice lasciamo che i lavoratori decidano, non ci sa poi dove ci si ferma. Perché a un certo punto uno potrebbe dire datemi anche i miei contributi che pago alla previdenza sociale, poi mi arrangio io per quando sarò vecchio, ma ci sono alcuni capisaldi, credo, che vanno salvaguardati, e credo che il TFR non è prigioniero, non è ostaggio di nessuno. Il TFR per legge può essere benissimo messo a disposizione anche in via anticipata per tanti bisogni che sono assolutamente bisogni primari delle famiglie. C'è differenza sostanzialmente tra la vita quotidiana o il doversi trovare di fronte a situazioni come quello di dover comprare una casa, ristrutturare una casa, curarsi da una malattia grave, e per cui bisogna avere un po' di cautela. Ecco, allora su questo, invita alla cautela, io aggiungo tre osservazioni. Attenzione se state a casa, perché se non ve lo detassano, se ve lo mettono nella base imponibile, voi beccate TFR, ma a quel punto molti di voi vanno oltre la soglia per gli 80 euro. Pensateci. Uno. Due. Pensate che ancora una volta noi non stiamo parlando di milioni di lavoratori autonomi. È così giusto secondo voi? Secondo me no. Dopo gli 80 euro, se facciamo anche questo, gli autonomi continuano a dimenticarselo. Terzo, oggi il Presidente della Camera Boldrini ha detto che chi critica l'accordo di retributivo che continua a dare a loro tra 4 anni ai dipendenti della Camera più di 240.000 euro dice che è fango sulle istituzioni. A me mi dispiace, queste parole del Presidente della Camera fanno schifo.